la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi e 41 secondi in diretta dagli studi qui di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast e vi annuncio subito l'argomento della trasmissione. E se per caso, soprattutto, siete famiglie italiane, coppie con problemi su procedure di adozione internazionale in corso, ebbene, questo è il giorno giusto per telefonarci e per raccontarci la vostra vicenda. Perché questa puntata e perché questa domanda? Questa puntata nasce da una constatazione. Noi abbiamo per molti anni avuto un primato internazionale. Non eravamo proprio i primi, ma eravamo i secondi e restiamo i secondi, cioè il secondo paese al mondo per, tra i paesi sviluppati, numero di adozioni internazionali anno per anno. A batterci erano e ancora adesso sono solo gli Stati Uniti, quindi pensate, è ovvio che è un paragone dal quale, al netto quindi della densità di popolazione per procedure, siamo noi il paese che vanta questo primato, che è un primato dal mio punto di vista molto positivo, come devo dire, perché testimonia la forte volontà di molte famiglie italiane di dare una chance a bambini che non ce l'hanno in altra parte del mondo, integrandoli, occupandosi di loro, dando loro affetto, prospettive di formazione del loro capitale umano e curandosi di loro. Quindi per me è sempre stata una cosa molto positiva ai miei occhi questa cosa qua. Se non che, ora vi farò i numeri, se non che questa tendenza negli anni è in fortissimo calo, cioè nel senso che i numeri sono molto diminuiti. C'è un fenomeno complessivo tra i paesi che più hanno avuto crisi, hanno avuto il morso della perdita di PIL e di reddito, che spiega in parte questa cosa, ma in Italia in realtà c'è stato un motivo che negli anni si è accumulato fino a diventare, ed è questo poi il vero punto, un problema anche politico istituzionale, perché abbiamo avuto per troppi anni la Commissione Nazionale sulle Adozioni, che non ha lavorato come ci si aspettava. È diventato il basso numero di adozioni rispetto agli anni precedenti, di anno in anno, l'espressione del fatto che era sempre più complicato da una parte e sempre più caro per le famiglie italiane procedere alla realizzazione di questa aspirazione, che è anche, soprattutto, innanzitutto espressione di una grandissima proclività al dare amore, affetto, integrazione, a migliorare le condizioni di bambini che sono nati avendo problemi serissimi. Allora, questa vicenda ha avuto anche uno sviluppo politico, perché proprio a seguito delle tante motivate pressioni delle associazioni nei confronti della apparente, ma in realtà sostanziale, inedia in cui anno dopo anno, dal 2013 in poi, era finita la Commissione Nazionale sulle Adozioni Internazionali, a febbraio il governo ha deciso di intervenire e alla presidenza quindi della commissione è stata nominata il ministro Maria Elena Boschi. Allora, io sarei innanzitutto molto interessato, abbiamo già fatto una puntata su questo tema tempo fa per segnalare questo problema. Nel frattempo c'è stato questo sviluppo, un altro sviluppo è che di fronte a questa pressante situazione di complicazioni sempre maggiori di tipo burocratico, amministrativo ed economico, anche il Parlamento ha deciso di incardinare un'indagine conoscitiva presso la Commissione Giustizia della Camera, e proprio nelle settimane alle nostre spalle, a maggio, c'è stata una lunga serie, nutrita serie di audizioni parlamentari per capire come rimettere mano a questo problema, cioè a come non continuare a impedire in maniera crescente a molte migliaia di famiglie italiane di adempiere a questo loro legittimo legittimo desiderio. Vi do qualche numero solo per testimoniare questa diminuzione che c'è stata anno dopo anno, sia pur, ripeto, sempre in posizioni straordinariamente più significative rispetto a tanti altri paesi europei, ma comunque la cosa che balza all'occhio è che in 10 anni le adozioni internazionali italiane sono diminuite di 2/3, quindi sono diminuite in numero molto molto significativo. Negli Stati Uniti sono state adottate nel 2014 22.884 no, scusatemi, erano 22.884 nel 2004 e nel 2014, quindi 10 anni dopo, il numero delle adozioni internazionali negli Stati Uniti è sceso a 6.600. E l'Italia, appunto, nei 10 anni 2004 e 2014 ha proceduto a 36.114 adozioni internazionali. Però anche nel nostro caso, anno dopo anno, sono molto, molto, molto, molto diminuite. Allora, intanto abbiamo con noi il presidente dell'AIB, Associazione Amici dei Bambini, Marco Griffini, che come altre associazioni però si è molto occupato di questa faccenda e sono stati tra coloro che con più energia si sono battuti perché l'apparentemente ingiustificabile, incomprensibile inerzia della Commissione Nazionale trovasse uno sviluppo politico con la decisione del governo che poi vi ho ricordato. Grazie di essere con noi, Griffini. Grazie. A voi per aver invitato. Allora, dovesse spiegarci come mai i numeri sono così diminuiti al netto della crisi economica, perché poi si vede anche negli Stati Uniti il numero diminuisce, però per l'Italia quanto ha pesato la crisi e quanto hanno pesato invece le complicazioni procedurali? Ma io parto da alcuni dati, no? Ho sentito la sua analisi, che in realtà va bene, ma però bisogna leggerla, nel senso che se entriamo dentro, l'Italia in realtà dal 2006 al 2012 ha aumentato le adozioni. Sì. E sono gli anni in cui Stati Uniti, Francia e Spagna diminuirono le adozioni. Esattamente. Cioè nel 2006 è cominciata la crisi delle adozioni. No, ma io non lo dicevo perché per l'Italia. Se guardiamo negli anni più recenti, nel 2010 in Italia erano 4.130, certo. Nel 2014 scesi a 2.800. Ecco, noi abbiamo cominciato a scendere dal 2013, no? Però siamo sempre andati in controtendenza rispetto ai tre paesi di maggiore adozione, che sono quelli che ho citato prima. Questo perché? Perché? Per due fattori. Primo, perché le famiglie italiane adottavano comunque i minori anche cosiddetti special need, quindi gruppi di fratelli, i bambini più grandi, i bambini con bisogni sanitari, mentre altri paesi, in modo particolare gli Stati Uniti, non erano tanto predisposti ad adottarli. Secondo, un fatto fondamentale, che l'Italia ha sempre considerato l'adozione internazionale come un fiore all'occhiello, tant'è sì, vero sì. Che la legge, la 194, quindi l'attuazione della 476, ha previsto che addirittura alla presidenza della Commissione fosse nominato un ministro, no? Rispetto per esempio ad altre autorità centrali che non avevano questa peculiarità di un impegno così diretto da parte del governo. E i ministri che hanno gestito la Commissione, da Bindi a Giovanardi in modo particolare, hanno veramente creduto nell'adozione internazionale. Tant'è vero che, e questo è da dire perché se no non si ha il quadro esatto, che per esempio i primi accordi bilaterali li ha fatti l'Italia. Il primo accordo con la Russia, che dopo la Cina è tuttora il primo paese di accoglienza dei minori, l'ha fatto l'Italia. L'accordo con la Cambogia l'ha fatto l'Italia. L'accordo con la Bielorussia l'ha fatto solamente l'Italia. Cioè, questo perché? Perché l'Italia ha creduto fermamente che l'adozione internazionale fosse un'importante iniziativa della politica estera. Quando è cominciato il crollo? Il crollo è cominciato quando alla presidenza della Commissione sono andati dei personaggi che tutto sommato avevano altri interessi e non l'adozione internazionale. Mi riferisco ai famosi governi tecnici, quindi è stato messo prima l'onorevole Riccardi, che per quanto provenga dal nostro mondo del non profit, probabilmente aveva altre ambizioni, magari di ambizioni politiche, ma non gliene fregava, scusi l'espressione cruda, ma non gliene fregava niente dell'adozione internazionale, tant'è vero che da quegli anni sono cominciate a crollare le adozioni. Poi un breve interregno del ministro Chienze, che è stato purtroppo fagocitato dalla crisi del Congo, dell'adozione del Congo, e poi è arrivato il disastro assoluto, in quanto di fronte siamo tutti quanti rimasti attoniti dalla nomina di questo magistrato Silvio Della Monica come vicepresidente, ma addirittura per la prima volta non è stato nominato un presidente membro dell'esecutivo, ma addirittura è stata data la delega di presidente alla stessa vicepresidente, tra l'altro creando una situazione veramente antidemocratica, perché io credo che sia la prima volta che nella storia della Repubblica venga nominato che il controllore è il controllato di se stesso, e questo fatto ha determinato di fatto la paralisi assoluta dell'adozione internazionale. Per cui, per rispondere alla sua domanda, se lei in un motore non mette benzina, il motore prima o poi si ferma. Questo è successo purtroppo in questi 2 anni. E noi siamo veramente preoccupati, perché giustamente lei ha detto che il governo adesso corre ai ripari e ha nominato addirittura il ministro Boschi, quindi la primissima autorità del governo, esatto. No? Perché si è reso conto del disastro che è stato combinato. Speriamo che il malato, in questo caso il malato si chiama adozione internazionale, non sia entrato in una crisi irreversibile, in un coma profondo. Che guardi che veramente la situazione è veramente drammatica. Però spieghiamo a chi accade, perché uno può dire, ma insomma, se ci sono gli accordi, siamo stati i primi a farli, che cos'è la differenza tra un presidente attivo, ma, guardi, o un presidente non attivo? L'accordo con la Cambogia. L'accordo con la Cambogia, i cambogiani stanno ancora aspettando 2 anni che la Commissione dica quali sono gli enti autorizzati ad operare in Cambogia. No, cioè, se dalla parte dell'Italia non vengono messe in essere tutte quelle iniziative per poter operare, sono 4 anni che non si apre un paese nuovo. Per esempio, noi come AIB, perché questa è la storia un po' dell'adozione, no? Si aprono paesi e si chiudono paesi. Oggi cosa abbiamo? Il Congo che è chiuso, il Kenya che è chiuso, l'Etiopia che sta chiudendo, il Nepal che è chiuso, la Cambogia che è chiuso. Però, per esempio, noi solamente come AIB abbiamo chiesto da ormai da 3 anni l'apertura di 15 paesi nuovi. Perché ci sono paesi che ci chiedono di adottare. Guardi, proprio recentemente, settimana prossima, per esempio, un appello l'abbiamo pubblicato sul nostro sito dell'autorità centrale della Colombia, che pubblicando i dati di Bogotà, che dice solamente a Bogotà nel 2015 i bambini abbandonati sono aumentati del 104%, purtroppo tutti questi bambini non vengono adottati dalle famiglie colombiane, perché non ce ne sono così tante, per cortesia mandateci delle famiglie. Il Perù 3 mesi fa ci ha chiesto di raddoppiare addirittura le famiglie che mandiamo, la Bolivia dopo 7 anni è aperto, però il problema è che se noi non teniamo i rapporti con questi paesi, se non andiamo a visitarli, se non riceviamo le delegazioni, se non creiamo dei tavoli paese per organizzare un pochettino le adozioni, chiaramente che ciascun ente è abbandonato a se stesso e le adozioni sono quelle che sono. Cioè, noi non possiamo aprire paesi nuovi, abbiamo bisogno che l'autorità centrale ci autorizzi ad operare per poi noi andare in questi paesi e chiudere gli accordi con loro. Allora, domanda, rispondo a un ascoltatore che dice: ma in realtà io sto maturando l'idea, ma mi dite una cosa, ma chi è che può legalmente fare domanda in Italia? Io rispondo a questa domanda, naturalmente Griffini mi corregge se sbaglio, però tra tutti gli stati dell'Unione Europea l'adozione internazionale ha regole diverse dalle nostre, nel senso che l'Italia, a me risulta che su 28 sia l'unico nel quale l'adozione internazionale può essere presentata come istanza solo da coppie regolarmente sposate, quindi né single né per conviventi etero, nei paesi in cui ovviamente c'era la possibilità di registrazione, eccetera eccetera. Però questa è la qualifica che bisogna avere, bisogna essere regolarmente sposati, corretto Griffini? Bisogna essere eterosessuali, esatto, e sposati, esatto, da almeno un anno e dimostrando poi una convivenza di altri due. Esattamente. Sì, però non è questo. No, no, ma questo era solo per rispondere a un nostro ascoltatore. Diciamo che il problema fondamentale forse oggi in Italia, relazione internazionale, che è l'unico paese europeo che ha ancora questo retaggio medievale del passaggio da un tribunale dei minorenni. Da un tribunale dei minorenni. No, per cui questo è veramente il sinonimo di che cosa intendiamo noi come cultura dell'adozione, quindi non una cultura dell'accompagnamento, non come un vedere queste coppie che sono una grande risorsa. Fra l'altro, lei non è stato questo problema, ma la si dice, ma è necessario adottare, io vorrei chiederle, lei sa quante sono oggi in Italia le coppie eterosessuali regolarmente sposate e senza figli? Troppe, direi. No, guardi che sono un dato che nessuno sa. Esatto, no, allora glielo dico io perché sono i dati ISTAT del 2011, quindi verificabilissimi, sono 5.430.000. Cioè oggi noi in Italia abbiamo 5.430.000 coppie coniugate senza figli, che non dico tutte, no, ma tantissime di queste potrebbero essere una grandissima risorsa per questi bambini abbandonati, se l'Italia tornasse da un lato a credere ancora nell'adozione internazionale, quindi speriamo che la ministra Boschi sia capace di rimettere in piedi il malato ormai in coma irreversibile, dall'altro che cambi questa cultura e che veda queste coppie come una grande risorsa bambino abbandonato. Non mi deve convincere, perché conosco dei casi, io ho molti amici, veramente tanti amici, e anche persone, devo dire, che hanno avuto un grande successo nella vita venendo dal basso, perché sono stati bravi, perché hanno studiato, hanno avuto grandi riconoscimenti professionali, che non hanno potuto avere figli, che l'hanno praticata, e devo dire, vedere poi i loro figli, la maniera in cui i loro figli, è una cosa che a me scalda il cuore. Io ho questa sensibilità, ma io credo che apprendere che noi per anni ci siamo bloccati con migliaia e migliaia di famiglie italiane comunque desiderose per questo problema è veramente una cosa incomprensibile. Io non riesco a capire quale possa essere la ragione, chi ci guadagna da tutto questo. Quindi incuria, bisogna dire incuria, Griffini. Ringrazio il Signore di aver ancora mantenuto l'intelletto, credo almeno, perché veramente siamo rimasti in questi 2 anni attoniti di fronte a questa cosa che ha dell'assurdo. Va cioè, bene. Ha veramente dell'assurdo. Mio Dio, adesso, oltre all'appello che lanciamo, adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, poi ci sono degli ascoltatori che telefonano e io chiedo a Griffini naturalmente anche di aiutarmi, perché lei può dare le risposte tecnicamente più adeguate a chi ci adesso racconterà i suoi problemi su queste vicende. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a parlare di adozione internazionale, di questo calo che il nostro paese ha avuto sempre, questa grandissima propensione, le famiglie italiane a migliaia e migliaia di casi, più di 36.000 in 10 anni di adozioni internazionali, e poi questo blocco di questi ultimi anni dovuto, come ci ha spiegato il nostro ospite Marco Griffini, presidente dell'associazione Amici dei Bambini, dovuto a questa incomprensibile stasi della Commissione nazionale, a questa proposta che per anni, di fronte ai paesi che chiedevano la ratifica di nuove convenzioni, si è fermato, non ha comunicato la lista. Sapete che bisogna passare per enti accreditati, no? Che servono poi a accompagnare, indirizzare nelle procedure le famiglie e così via, e non si capisce perché. Adesso vedremo se si sblocca, ma intanto sentiamo alcuni di voi con le loro esperienze. Renato ci chiama da Como, prego Renato. Sì, buongiorno Oscar. Buongiorno. Vorrei raccontare la mia esperienza personale. Sì. Io sono passato ben 2 volte dal Tribunale dei Minori di Milano, dopo aver avuto relazioni dall'assistenza sociale, da psicologi, per tutte le trafile fatte per adozione, ed essere trattato come un reietto. Addirittura facendo venire da qualche anno, da ormai 4 anni, una bambina bielorussa in affido, 2 mesi d'estate e 1 mese per Natale, da una giudice del Tribunale di Milano mi sono sentito dire che quelle associazioni che danno i bambini in affido così sono criminali. Ora, so che in altre regioni d'Italia è diversa la situazione, perché ho esperienze di amici di altre regioni che sono riusciti ad adottare, ma volevo proprio dire che tante volte il blocco viene proprio dal Tribunale di Milano. Ma posso farle una domanda per certo. Spiegare a chi è a casa? Siccome ha usato termini riferendoli al giudice molto pesanti, il giudice secondo lei a cosa si riferiva utilizzando quella qualifica di associazioni criminali agli enti accreditati? No, non sono enti accreditati, sono quelle associazioni che fanno venire i bambini dalla Bielorussia. Quando mi ha spiegato la situazione, che queste bambine venivano ormai da un anno e mezzo da noi, ha detto: ma queste associazioni che danno i bambini in mano a gente non controllata sono assolutamente criminali. E quello è il discorso. Poi dopo ha fatto un altro discorso sulle bande dei Latinos, che lei a Milano, facendo anche il penale, si trovava sui giorni. Cioè siamo veramente, non parlando di adozione, anche se noi cercavamo l'adozione, non essendo riusciti ad avere figli, pur avendo fatto le trafile chimiche. Quindi insomma lei ha trovato questo atteggiamento nel Tribunale di Milano. Sentiamo Daniele dalla provincia di Roma. Daniele, prego. Sì, buongiorno. In realtà io partivo un po' dal discorso alla base, che era quello delle adozioni internazionali contro le adozioni nazionali. Cioè, io ho sempre saputo, un po' per esperienza quasi personale, avendo molti amici e mia moglie lavorando nel settore, che l'adozione a livello nazionale è molto più difficile rispetto a quella internazionale. Quindi ci si rivolti sempre alle adozioni internazionali, quindi aumentando i numeri da quello che ho sentito, proprio perché, tra virgolette, chiamiamolo mercato nazionale, è praticamente inaccessibile per milioni di motivi burocratici, perché gli assistenti sociali sono iperburocratizzati e fanno dei controlli che neanche veramente che stessero, non so, cose di questo genere. Quindi io mi chiedo veramente quanto poi questo dato dell'adozione internazionale sia dovuto invece al fatto che adesso c'è meno voglia di adottare a livello internazionale. Forse questo negli anni. Guardi, siamo tra i paesi che hanno effettivamente, secondo me, anche per i limiti molto stretti che la legge pone all'adozione nazionale, se è quello a cui fa riferimento, tra quelli che hanno avuto come paese la maggior proclività a quella internazionale. Altri paesi europei sono molto più concentrati sulle adozioni nazionali, e poi facendo scendere quelle internazionali hanno complessivamente diminuito comunque la loro propensione all'adozione anno dopo anno. Che dice Griffini? Certo, la prima telefonata a me crea proprio... Ma guardi, qui c'è un'estrema, mi spiace dire, ignoranza da parte di questi giudici, perché il non sapere che tutte queste vacanze cosiddette terapeutiche in Italia sono gestite da un comitato dei minori che controlla l'operato di tutte queste associazioni la dice lunga. Cioè, non è che in Italia possono venire questi bambini dalla Bielorussia o dall'Ucraina così affidate ad un'associazione qualsiasi. Sono associazioni che hanno ottenuto l'autorizzazione per gestire queste attività, e all'interno di questi bambini ce ne sono molti che hanno già lo stato di abbandono dichiarato. E allora molti di questi genitori che ospitano questi bambini per le vacanze estive o invernali poi chiedono di ottenere l'idoneità per poter adottare questi minori. E le devo dire che questa è una prassi che, per esempio, sia negli Stati Uniti, sia in Cina, sia in Colombia, sia in molti paesi, la stanno utilizzando per fare le adozioni cosiddette di bambini grandi. Certo. E tra l'altro noi stiamo chiedendo anche, no? L'avevamo chiesto alla precedente commissione, con questa qua figuriamoci non si può parlare, no? Proprio di poter utilizzare questo sistema delle vacanze estive o invernali, chiamandole vacanze preadottive, per poter preparare da un lato i genitori e dall'altro i minori per poter fare questa adozione di bambini grandi. Abbiamo un esempio molto concreto. Per esempio, l'anno scorso noi abbiamo premiato una nostra famiglia dell'Ucraina, la famiglia di Brescia, che ha adottato 5 fratelli dell'Ucraina, perché ormai erano anni e anni che li stavano ospitando. A me, devo dire la verità, Griffin, sembrano cose estremamente ragionevoli quelle di cui parla. Il solo fatto che non ci sono le istituzioni sorde mi lascia un po' atterrito, un po' come sempre con questa domanda, non riesco a capire perché. Sentiamo Grazia da Firenze. Grazia, prego. Sì, buonasera. Su che storia dell'adozione? Io ho adottato nel 2007 un ragazzino di sei anni sì, dalla Russia. È stata un'esperienza bellissima. Faticoso, molto faticoso preparare tutta la documentazione, però anche una consapevolezza che era per il bene del minore. Anche la cosa del tribunale minorile a me non mi è pesata essere stracontrollata, cioè nel senso, perché questi bambini devono avere delle certezze. No, certo, ma qui nessuno... Aspetti, sì. Grazia, noi non stiamo parlando del fatto che vogliamo l'adozione senza controlli, noi stiamo parlando del fatto che nei confronti di paesi che fanno istanza non gli diamo risposta. No, ma Grazia, non abbia questa impressione. No, perché prima c'era il discorso come se passare attraverso il tribunale dei minori fosse... No, però capisce che se il giudice poi... No, sì. Ma ha ragione, però che chiarisco, nessuno abbia questa impressione che noi non vogliamo che i minori siano adottabili senza controlli, ci mancherebbe altro. No, dico solo che se poi il giudice le dice ma queste associazioni sono criminali, dice ma come sono criminali? E Griffini ci ha dato la risposta da questo punto di vista. Cioè, a volte ci sono anche dei pregiudizi. Sentiamo ancora Giovanni da Milano. Giovanni, prego. Buongiorno. Buongiorno. No, la mia situazione è un pochino particolare. Adesso, sentendo la vostra trasmissione, mi è venuta in mente un'idea. Dica. Io sono uno oramai dei tanti che vive all'estero e sono qui in vacanza. Adesso, sentendo la trasmissione... Cioè, lei è un cittadino italiano, ma che risiede e lavora all'estero. Che risiede all'estero, però in un paese europeo. Sì. Volevo sapere se ad esempio è possibile adottare attraverso il paese dove risiedo. E facciamo rispondere subito da Griffini. In questo caso si adotta la legislazione del paese in cui si è residente, se della UE, o resta la legislazione italiana? No, essendo un cittadino italiano può adottare, stando nel paese estero, passando da un ente autorizzato italiano, certamente. Ma la legge che vale è quella del la paese in cui risiede. È quella italiana, caro Giovanni. No, ma si può fare. Sono stati si può fare, però, con la legge italiana. Va bene, vediamo se questo nostro appello avrà un qualche ascolto. Intanto, grazie a tutti coloro, eravate molto più numerosi del previsto, che volevate intervenire. Grazie a Marco Griffini per quello che fa, per quella che secondo me è veramente una sacrosanta causa. E continuate con la 24, appuntamento all'8:15 domani mattina con me, Alessandro Milano, Attentino 2.